Europa 24. Buongiorno da Gigi Donnelli. Dunque, l'avete sentito, l'Eurogruppo avanza intorno al dossier greco, ma non si arriva ancora a conclusione. Insomma, l'Eurogruppo di oggi, per usare le parole di Pier Moscovici, è importante per verificare le intenzioni dei greci, che devono rassicurare l'Eurogruppo stesso, dunque l'Unione Europea, sulla volontà di rispettare gli impegni per raggiungere un accordo. Così, come vi dicevo poco fa, il commissario agli affari economici Pier Moscovici. Ma sentiamo servizio. Una colazione prima dell'Eurogruppo, attorno al tavolo i cinque presidenti dell'Unione: Juncker, Tusk, Dijsselbloem, Draghi e Schulz. Sul tavolo il futuro dell'Unione monetaria, impossibile dunque non parlare anche di Grecia, considerato che l'Eurogruppo, in programma alle 15.30, si occuperà quasi esclusivamente della crisi ellenica. Non è una novità che i cinque si vedano e non è un caso che l'occasione precedente risalga allo scorso gennaio, subito dopo le elezioni che hanno portato Tsipras al governo. È possibile che si discuta anche di soluzioni estreme. Indiscrezioni di stampa riportano che il Fondo Monetario starebbe lavorando a un piano di emergenza per un fallimento. Domani Atene dovrebbe restituire al fondo oltre 700 milioni. Sul pagamento pochi dubbi, sulla soluzione della crisi invece i tempi non sono ancora maturi, ma il ministro Padoan, in arrivo a Bruxelles per la riunione con i suoi omologhi dell'Eurozona, si dice fiducioso. Non ci si attende una conclusione, ma ci si attendono passi in avanti nel dialogo che continua sia a livello tecnico che a livello politico. L'euro oggi è molto più forte di allora per molte ragioni, ne cito due: perché da allora si è dimostrato che la Banca Centrale Europea poteva gestire con efficacia una crisi, con il famoso OMT, e naturalmente c'è stata la costruzione dell'Unione Bancaria, che se ci pensate 10 anni fa non era neanche nei pensieri. I segnali arrivati alla vigilia sono stati contraddittori. Juncker ha parlato di bicchiere mezzo pieno a fronte di sforzi concreti dell'esecutivo Tsipras: innalzamento dell'IVA, impossibilità di sovvenzionare le pensioni, privatizzazioni. Ma le ultime parlano di un out-out per arrivare a un accordo nelle prossime settimane. Se così sarà, avrà avuto ragione Varoufakis: si arriverà a un'intesa, ma solo dopo aver visto l'orlo dell'abisso. La soluzione arriverà nei prossimi giorni, dice il ministro, arrivando a Bruxelles. Ciascuno deve fare il suo lavoro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto alcuni ministri di paesi europei dell'est fanno muro contro la proposta di modificare il principio di libera circolazione nell'UE, come invece vorrebbe il premier britannico David Cameron. Nei suoi negoziati per il cosiddetto rimpatrio dei poteri da Bruxelles, i rappresentanti per i rapporti con l'UE di Polonia, Slovacchia e Ungheria, in un appello lanciato proprio sul Financial Times, hanno definito sacrosanto il principio che permette a un cittadino comunitario di trasferirsi e lavorare in un paese di uno Stato membro. Siamo pronti a sederci intorno a un tavolo a negoziare su quanto deve essere riformato, ha detto il ministro polacco per l'Europa Ciarkowski, ma in fatto di immigrazione i nostri paletti sono molto chiari, la pensano allo stesso modo due suoi colleghi omologhi, lo slovacco Jarkovic e l'ungherese Takac, che aggiungono: non ci piace che i lavoratori stranieri vengano chiamati migranti, sono cittadini europei liberi di lavorare in altri paesi europei. E ancora, nel fine settimana, in occasione della festa dell'Europa, aperto al pubblico il padiglione dell'UE, dell'Unione Europea, dunque all'Expo di Milano, all'interno dei video narrano la storia di due giovani di nome Alex e Silvia, un agricoltore e una ricercatrice. Con Matteo Pederzoli, curatore del padiglione, abbiamo fatto un tour virtuale, lo sentiamo al microfono di Laura Bettini. Qui noi abbiamo praticamente la zona che è quella della queue, dove si entra, dove si fa la fila, che noi consideriamo già un ambiente, perché comunque è un ambiente dove abbiamo i quadri con i diversi esempi di pane o di specialità basate sul pane. Poi abbiamo i tre blocchi cinematografici, ognuno fatto da due stanze, quindi sono sei stanze in tutto. Una stanza che chiamiamo quella del pre-show, dove i visitatori incontrano i personaggi principali, Alex e Silvia, e poi la stanza principale del main show, quindi dello show principale dove noi facciamo vedere il cortometraggio. Dopodiché si esce, c'è un altro ambiente che è il corridoio, che culmina poi con il premio Nobel, perché l'idea è anche la simbologia del pane. Ricordiamo, il premio Nobel è dato all'Unione Europea nel 2012 per la pace e per i diritti umani. E poi si va nella zona del content center, quindi del centro dei contenuti, dove ci sono questi schermi interattivi che rappresentano diversi ambienti, e questi ambienti coprono praticamente tutta la catena di distribuzione, perché gli ambienti sono collegati a quello che è il tema della partecipazione dell'Unione Europea, cioè coltiviamo insieme l'Europa del futuro per un mondo migliore, ma con il pane come elemento comune, e i panettieri si cimenteranno per replicare quella che è la ricetta del pane di Alex e Silvia. E ora il microfono a tutti i convocati, noi ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.